il professore Tridente dell'Università di Bari, che era stato invitato, non è potuto venire e allora ha mandato 3 pagine incaricandomi di leggerle sopra la fondazione che lui ha fatto, e non è terminata, l'ho visitata, di una città musulmana intorno a Bari. Dopo 11 secoli una grande realtà culturale islamica risplende nel mezzogiorno d'Italia, la terra di Federico, di Plotino, Talete, Orazio e nell'antica tradizione delle scuole sapienziali iniziatiche. Per esclusiva iniziativa del professore Michele Tridente, docente di ecologia applicata all'ingegneria nell'Università di Bari, membro dell'Accademia Islamica di Cambridge, sta sorgendo a pochi chilometri da Bari, nel comune di Casamassima, una cittadella islamica che ospiterà una comunità di maestri di islamismo, i quali, ispirandosi agli insegnamenti di Jalaleddin Rumi, sul profilo del suo universale ecumenismo, proietteranno i frutti della loro ricerca sapienziale. Il centro islamico, che attualmente si sviluppa su una superficie coperta di metri quadrati 3.800 e su superficie scoperta di circa 23.000 metri quadrati, comprende 2 lotti di lavoro. Il primo è costituito da un museo della civiltà islamica, con particolare riferimento al periodo dell'Emirato, IX secolo, e quello di Federico II, XIII secolo, un osservatorio astronomico, una biblioteca, un centro di traduzione e stampa, aule, segreteria, uffici, alloggi per il personale di custodia e di manutenzione, alloggi per gli ospiti e maestri itineranti, una cucina, un refettorio, un orto botanico per erbe medicinali, laboratori per la scultura e la lavorazione del legno. Il secondo lotto di lavori prevede la costruzione di una moschea, un cimitero, un centro sanitario di medicina alternativa, un mattatoio e la realizzazione di un'annessa azienda agricola per la coltivazione dei prodotti della terra e l'allevamento del bestiame con protezione ecologica, relativi ambienti ed attrezzature per la lavorazione e conservazione dei prodotti della terra. Sul piano della ricerca, la scuola sapienziale, che può vagamente assimilarsi ad una università occidentale, sarà articolata. Primo settore, studio delle lingue sacre di tutte le teosofie, particolarmente riguarda quelle demonoteistiche. Secondo settore, esegesi dei testi sacri di tutte le scritture rivelate, anche a contenuto scientifico. Terzo settore, islamologia, lingua araba, letteratura araba, Corano, esegesi coranica, teologia islamica, storia dell'Islam, storia dell'arte islamica, geografia e economia del mondo islamico, archeologia pre- e paleo-islamica, storia delle scienze islamiche, storia della filosofia islamica, lingua turca, lingua iraniana, letteratura turca, letteratura persiana, diritto musulmano, storia moderna e contemporanea della comunità islamica. Quarto settore, traduzione dei testi originali islamici pre e post coranici e relativa stampa. Quinto settore, attività manuali, arti islamiche, scultura della pietra e del legno, ferro battuto, ceramica, decorazione, eccetera. Sesto settore, attività di coltivazione e conservazione dei prodotti del suolo, allevamento e macellazione del bestiame secondo i dettami islamici, totale protezione ecologica da qualsiasi forma di inquinamento da supporti chimici e fisici. Settimo settore, osservatorio astronomico adibito in parte alla ricerca coordinata con la rete delle associazioni astrofile ed in parte utilizzata per le esigenze di datazione e misura del tempo per gli eventi liturgici islamici. l'ottavo settore, attività di scambio culturale con l'Occidente, promozione di mostre di arte, convegni, tavole rotonde, per mostrare e far conoscere la vera essenza dell'Islam all'Occidente e allo stesso tempo promuovere flussi turistici anche di carattere religioso e culturale verso i paesi islamici da tutto il mondo verso la Bari. Si tenga presente che tale istituzione non ha ricevuto nessun aiuto finanziario di alcun genere da nessun ambito religioso o qualsiasi materia. Lo spirito che anima il fondatore dell'Università Islamica di Bari è quello di stimolare le più genuine risorse spirituali ed ecumeniche nell'ambito di tutta la teosofia, al fine di mantenere testimonianza lo scopo primo della creazione dell'uomo, che è il suo progressivo avvicinamento alla divinità. Infatti oggi si assiste ad un crollo dell'ideologia politica a cui si accompagna una crescente perdita di credibilità nell'ideologia religiosa. In questo contesto, in cui non solo la società occidentale massifica comportamenti materialistici in un'orgia di consumismo che coinvolge anche la sfera pseudo-spirituale, ma soprattutto quando pare che le tenebre prevalgano sulla luce, è l'ora in cui si accumulano tensioni e energie dalla parte illuminata della creazione che innescano cicliche rinascenze. In questa fase storica all'Islam ecumenico è affidato un compito mediato attraverso l'istituzionibile ruolo della cultura per una seria difesa della pace. Anche perché oscure forze che si annidano in particolari teosofie confermate da comportamenti delle comunità che le hanno privilegiate e da cui incoscientemente vengono strumentalizzate come progetti satanici di distruzione e sopravvivenza elitaria, sono talmente palesi da rendere superflua, circa un secolo ormai di distanza, l'ultima esplicita documentazione. È da sperare che proprio nell'ambito delle residue istituzioni riformatrici della Chiesa cristiana si raggiunga consapevolezza che la progettualità di un costruttivo e continuo dialogo cristiano-musulmano non è più esclusivo campo dell'esegesi delle scritture o di salvaguardia di convivenza civile, ma anche di un progetto vero e drammatico di salvezza, perché nel pianeta ormai vi siano tutti, inshallah, i tempi necessari per la realizzazione della pace universale. Questo è il messaggio che ha mandato il professor Tridente, e che io ho letto e ho visitato anche la sua cittadina islamica, che è in via di progresso